Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Il PM Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, zitto non vuole proprio stare. Del resto, se la schiena dritta, piegarla è difficile. Anche in questo momento, in cui è un candidato autorevole a diventare capo della stessa procura, non riesce a sposare la diplomazia, tanto utile invece a chi nella vita non ha altre armi. Gratteri, in tema di spending review, vale a dire di revisione e tagli dei costi, promossa e promessa dal governo Monti e portata avanti dal tagliatore Bondi, nel corso di una festa della legalità a Reggio Emilia ha criticato i suoi colleghi che, anziché essere in prima linea sul fronte della lotta quotidiana alla mafia, preferiscono magari stare comodamente adagiati nelle stanze di un ministero o comunque in uffici pubblici che li accolgono. Nei ministeri, al centro o nelle sedi periferiche, ha infatti affermato Gratteri, ci sono 100 magistrati che lavorano come consulenti. Facciamoli rientrare nelle procure, a partire da quelle distrettuali antimafia. Facciamo in modo che i magistrati facciano il proprio dovere, quello per il quale sono stati pagati e per il quale hanno deciso di affrontare un concorso statale. Lasciamo che a fare i consulenti, se proprio i ministeri e gli uffici ne hanno bisogno, prendano i professori universitari. Il problema è datato e già negli scorsi anni diversi magistrati opinionisti avevano criticato queste scelte che spesso lambiscono il carrierismo sfrenato e sono soggette a interpretazioni poco benevoli sulla contiguità, che non dovrebbe esistere mai a mio giudizio, tra governo della giustizia e politica lato sensu. Beh, direi di fermarci qui. Quasi scontate ma non banali attenzioni le altre frecciate puntuali di Gratteri, come questa che vi sottopongo così come pensierino finale. Perché, anziché far passare ore e ore detenuti davanti alle TV, non impiegarli in lavori utili a partire dai campi di lavoro? Buona vita e a domani.